oggi abbiamo partecipato a un'iniziativa davanti alla fabbrica Calzoni, che si chiama esattamente L3 Harris Calzoni, perché è diventata americana da qualche anno, che è una delle aziende delle industrie dell'Emilia Romagna che continua a vendere armi a Israele, nonostante ci sia la richiesta internazionale da parte dell'UNHCR e da parte di altri organismi di interrompere ogni collaborazione, soprattutto con l'industria militare israeliana. E quindi oggi in tutta Europa si sono organizzate iniziative come questa, in Italia circa 7-8 in diverse città, perché vogliamo portare in evidenza due cose: che noi siamo complici in questa guerra, con questo genocidio in atto nei confronti del popolo palestinese, e le guerre cominciano da qua. Cioè, Israele, se non avesse il sostegno soprattutto americano ma anche europeo e la fornitura continua di armi ininterrotta, non potrebbe fare quello che fa. Quindi noi non dobbiamo solo indignarci, denunciare o chiedere a Israele di fermarsi. Dobbiamo smettere noi per primi di vendergli armi. Dobbiamo cominciare da qua. Noi, anche come cittadini di questa città e di questa regione, possiamo mobilitarci contro questo traffico di armi, questo commercio di morte, che la guerra possa continuare. Calzoni non è l'unica industria che fa questo tipo di attività con Israele, ce ne sono parecchie altre, per cui noi andremo anche davanti ad altre fabbriche, anche chiameremo anche la regione Emilia-Romagna a rispondere del fatto che finanzia e agevola le industrie che producono armi e che vendono anche Israele. Nello specifico, nel 2023, secondo il report della legge 185, questa fabbrica ha esportato armi per 77 milioni di euro, di cui praticamente 5 milioni ad Israele. Esattamente, sì. Questa eccellenza, di cui non siamo assolutamente fieri, è una fabbrica molto ricercata nel mondo per alcune sue componentistiche in particolare, ma anche perché collabora ad alcuni progetti internazionali per il grande piano di difesa internazionale e appunto ad esempio produce componentistica per i sottomarini, per alcuni sistemi di spionaggio, di puntamento e così via. Ma ci sono tante collaborazioni, ognuna delle quali in sé sembra che facciano solo dei pezzi di ricambio e basta, invece partecipano attivamente alla costruzione di armi o di sistemi d'arma. Voi dite che sostanzialmente per arrivare alla pace bisogna fermare il traffico di armi, quindi chiedete un embargo. La prima cosa è chiaro, sembra quasi un'ovvietà, cioè noi chiediamo l'embargo militare, ma non è che lo chiediamo noi che siamo notoriamente pro-palestinesi, ma lo chiedono le organizzazioni internazionali, lo chiede UNHCR, lo chiede la Corte Internazionale, che ha messo sotto accusa il Presidente, il Ministro della Guerra israeliani, insomma, quindi per crimini di omicidio, di genocidio, questo tipo di crimine, se non vuoi essere complice e accusato di esserlo, devi interrompere le collaborazioni, ma questo lo prevede il diritto internazionale. Per noi è più importante il diritto internazionale che la legge della giungla che stanno cercando di imporci a partire dal padrino di tutto che abbiamo visto essere in America. Quindi noi quello che possiamo fare, dobbiamo opporci a questo tipo di impostazione dei rapporti internazionali e anche a livello commerciale.